il connettore è a 8 su originale, il cablaggio è a 8 anche all'interno, e prende l'alimentazione diretta dalla radio, quindi è perfetto, così bisogna farli, perché almeno non hai problemi che ti fischiano, ti fanno. E questo mi c'ha un cavo del cavolo, glielo cambio e gli metto quello schermato a questo MB+4. Lo posso tutto schermato, mi rugavo, visto che non serve a niente questo capo che ho io. Cava Gava, è come appunto sta facendo l'altro MB+5 a Riccardino, però adesso avevo la cosa, l'MC80, che collega l'MC80, capito? Avanti già. L'unica cosa che c'è che non è spiralato, che non è liscio. E cosa le fa se è liscio? Non è che devono essere spiralati i cavi. Un cavo schermato buono è meglio di questi spiralati, capito? È molto meglio. Questo è un cavo, è quello vecchio, è un cavo di quelli così, la giusto un cavo così, ed è l'MB+4 quello vecchio, però se io gli metto un cavo schermato, lo vedi se lo alzo? Sì, ma sai qual è il problema di quei cavi, Gianni? Uno come me, no? Che c'ha per esempio il microfono in basso, le radio in alto, come vengono quei cavi lì? Perché? Perché li passi da sotto, li fai girare e non ce li hai davanti. Io ce l'ho così qualcuno, oppure ce l'ho le prolunghe lunghe, per esempio della Kenwood, dell'Icom, ce l'ho le prolunghe lunghe, mi collego allo spiralato e allungo il cavo dietro e lo faccio passare dietro in modo che non c'hai il cavo pendoloni davanti, già, capito? Infatti almeno non si vede, capito? Tante cose. A fianco il microfono, proprio a fianco all'apparecchio, e ha bisogno. Ce l'ho corto, è corto quello del mio, è molto corto, ci sta giusto a fianco. Sì, se c'è la radio in basso va bene, anch'io i 60 ce li ho in basso, li metto sotto e non si vedono, ma quando le radio ce l'ho in alto, io ce l'ho il ripiano, no? Quindi ci sono le HF sono in alto, e per non avere il cavo penzoloni, io le prolunghe, che me le aveva fatte Archimede, capito? Me le aveva fatte lui. GUP me le aveva fatte lui, e quindi le uso sia per la via ESO sia per i keyboard, per i microfoni, e passano da dietro e non davanti, non si vede niente, vedi solo l'aggancio alla radio e basta, per quello che lo sto dicendo. Che cosa io uso Gubignolo, già non ne voglio vedere mondezza. E io idem. Ascolta, allora ti voglio dire, ma Archimede non sta più entrando nelle vostre frequenze, nelle frequenze radioamatoriali, perché non l'ho più sentito nemmeno qua, prima entrava ogni tanto. No, beh, sta lavorando, è impegnato, è già da un po' di tempo, però ogni tanto già si fa sentire. Ma non c'è più nessuno analogico, Gianni, sono tutti in digitale oramai. Siamo in digitale, anch'io ce l'ho, lo uso poco, ma ogni tanto faccio qualche cosettina. È tutto in digitale oramai, già, è cambiato il sistema. Magari per l'SVL avere un... Anche Roberto mi stava cercando, non sente più nessuno. Cosa vuoi ti dica? Si va avanti purtroppo, bisogna seguire le cose. Adesso tutto via satelliti, tutto via, capito? Si sono organizzati così, a me poco mi interessa, però sono tutti così già. Vabbè, su 145.525 ogni tanto si sente qualcuno, ogni tanto si sente, io lo lascio sintonizzatori e ascolto lì. Ma tu invece ascoltare anche i punti, perché se tu ti metti a 145.787.5, quello è un ponte dove noi bazzichiamo tanto, facciamo tanti QSO. Perché 525 si usa per la diretta qua a Sassari, ma se vuoi parlare con fuori, quando entrano gli altri siamo sempre lì, sul ponte, capito? 145.787.5, 145.662.5, quelli sono i ponti delle sezioni, quindi devi metterti lì per ascoltare più cose, non in diretta. In diretta si parla poco, dai. Kappa, vabbè, tipo baracchino lo usano, dai. Per dire si sta andando a lavorare, eccetera, eccetera, sta andando qua, sta andando là, ecco. Poi chiudono discorsi molto brevi, dai. No, beh, si tiene anche il monitor, sia quella che le UHF 433-200. Si tiene il monitor soprattutto quando ci sono prove in 40 metri, 80 metri, allora si rimane lì in ascolto e si parla lì, no, vai adesso, dai, mi guarda, come ti sta arrivando, capito? Come facciamo più o meno noi, dai. Tutto lì. Però c'è poco traffico, dai. Un po' così. E io perché mi voglio buscare un ricevitore HF? Per poter ascoltare qualcosa, perché intanto nelle bande alte, ragazzi, non ascolti niente. Cosa? Cosa hai detto, Natalia? Ho detto nelle bande alte non ascolti niente, perché mi voglio buscare un ricevitore HF io, per quel motivo. E certo, se non c'è un ricevitore o un ricetrasmettitore, HF non intendi nulla, cosa intendi? Ma purtroppo il ricetrasmettitore non è Bussudini e devo buscarmi un ricevitore per forza. Verrà mettete bene, Natalia, cosa vuoi ti richia? È un casino, vabbè. Tra poco liberalizzeranno la patente, così almeno tutti potranno entrare nelle bande radioamatoriali. Non credo proprio. Sì, è un sogno, ma tutti. No, per me, a me basta quello che faccio, ascolto col ricevitore, col gommino, se quello che sento sento, quello che non sento lo lascio, non è che... Ma almeno col ricevitore qualcosa la senti, dai. Tu immaginati che c'è stata una lotta in Italia, perché i primi sono stati in Francia, gli inglesi, per la telegrafia, c'è stata una lotta per unificare le patenti, perché prima erano due, dovevi fare prima la telegrafia, poi o prima la speciale, poi l'ordinaria, se non mi ricordo. C'è stata una lotta per togliere la telegrafia, tu non hai idea. Una lotta, però, non le volevano togliere, poi il Ministero ha accettato. Fiora decine bugani gli esami da radioamatore, non si impicca in prima. Ma poi che senso ha toglierli? In tutto il mondo è così. Allora chiunque può entrare e fare casino nelle bande radioamatoriali. No, non va bene, no, qua. Ma io sono d'accordo con te, non va bene, no. La vuoi, studi e te la prendi. È come già che diano la patente della macchina a tutti, tutti possono guidare. Ma stai scherzando? Assolutamente, ci sono delle regole molto molto ferre, molto molto ferre, altrimenti si bugna in 40 metri, ci rimella, lì ci vanno arrestatomi. Ma io ho fatto la battuta, non è che sto sperando una cosa del genere, perché so che è una cosa impossibile, era un sogno, dai. Un sogno che hanno tutti, che magari così possono liberalizzare gli apparecchi, eccetera. L'unica cosa che mi dispiace è che no, a me non me la daranno mai, perché se no io me la sarei presa, avrei fatto attività, perché io l'attività l'avrei fatta, solo che a me non me ne danno. Ma tu sei fissato, c'è sempre questa fissazione, Natali, da anni che non te la danno. Ma se uno va, fa il compito giusto, glielo devono dare. Evidentemente quando si è andato hai fatto qualche errore, come Roberto. Roberto è andato, poi ha abbandonato, ha fatto un errore, uno ne ha fatto uno. Ha fatto anche ricorso e non l'hanno passato. Non è così, Natali. Tu sei fissato che non te la diano, ma perché hai ammazzato qualcuno, hai precedenti penali. Sì, sì. Una persona tranquilla, serena, ti piace la radio, perché non te la devono dare? Non ho capito. Perché? Cioè Gianni, io quando sono andato nel 92, capito? È come quando uno va a scuola, tu sei andato a scuola, no? Io sono andato, poi mi sono ritirato, poi mi sono riscritto, mi sono diplomato. Però il problema qual è? Che se uno vuole una cosa, la deve ottenere. Sì, io mi devo diplomare perché altrimenti senza diploma non trovo lavoro. Ok? E quindi vai, studi e ti diplomi. Così è la stessa cosa con la patente, la radioamatore. Io ho le radio ma non le posso usare, mi sono rotto le balle, devo studiare e prendermi la patente perché voglio usare quel tipo di radio. E così fanno tutti, così ho fatto io, così ha fatto Antonio Brodi, andato così, si è preparato perché non è stupido, è andato e se l'ha presa, capito? Elio non ha detto nulla a nessuno, è andato e se l'ha presa. Stefano non ha detto niente a nessuno, ha studiato quelle poche cose che doveva studiare, è andato e se l'ha presa. Tutti abbiamo fatto così, tutti. E se uno una cosa non la vuole, la deve ottenere, non è che tira buoni rigaranno, oppure ma è troppo difficile. Niente è difficile, nella vita niente è difficile. Se uno fa una cosa che la deve ottenere, la vuole, niente è difficile. E deve essere che la memoria ti ha abbandonato, Fla, se no già lo sai su. E che fosse qui che mi dà più la patente, non mi credi, va. Anche i stupidi gibbano qui a tirare. Niente è impossibile, capito? Niente è impossibile per nessuno. Gli obiettivi, quando uno li vuole, arrivano sempre. Io i miei obiettivi li ho sempre raggiunti. Quando io sono entrato a lavorare il primo periodo, nonostante avessi il titolo di studio, fa due mesi, ma ne vuole averne già chilometri di dubbi. Cosa ce lo di Luca, chilometri di dubbi? Addirittura mi scelevo, alla fine mi ero rotto le balle. Mi compravo quelle tutte bianche, no, però buone, non quelle. Mi bruciavo accavato ai dubbi, come interale l'aino. Con un rullo, andando e vernicendo, a chilometri. Poi mi hanno tolto da lì, mi hanno messo a fare ispezioni di condotta. Addirittura mi avevo comprato una di questi, come si chiamano? Rottaggi, per i rovi. Perché arrivavo a casa tutto pieno di pini, tutto fasciato, tutto disintegrato, per controllare i tubi se c'erano ferite, chilometri e chilometri in campagna a controllare i tubi. Poi ho detto, ma fermo un attimo, qua c'è qualcosa che non funziona. E l'azienda, allora era ESAF, quando sono entrato io, c'erano i concorsi interni per passare appunto conduttore d'impianto. Io l'ho fatto e l'ho ottenuto subito, sono passato immediatamente con il dottore impianto e sono andato nel potabilizzatore di Perfugas. Da lì ho iniziato il mio percorso e sono arrivato fino a dove sono arrivato. Se uno una cosa la vuole, la deve ottenere. Senza ombra di dubbio. Comunque, là, per il momento non mi interessa, però più in là, tanto anch'io diventerò anzianotto come voi. E poi vabbè, a me piace fare il più ascolto, lì non è che mi piace assai, ma ho visto così in mari si entra un attimino, giusto per, insomma, uno deve fare il primo ascolto prima di entrare lì, una volta che fa ascolto, che sicuro è, bene, entra e, con nominativo e fa quello che deve fare, come fanno gli altri. Tu, ho già fatto 20 anni in biratta io, hai capito? Io a 16 anni ci avevo già le V e le U, a 17 anni ero già in mezzo a... ero sempre con loro io, capito? Quindi ero già preparato ad entrare, ma io ho sempre detto, lo ribadisco e lo ripeterò, vita naturale durante, a me non me ne affutti nulla di fare radioamatori a livelli alti. Io la licenza e la patente me l'ho presa per la detenzione delle radio, per avere le radio, per non rompermi le palle a nessuno, per fare quello che mi piace, capito? Non per fare radioamatori a livelli che conoscete, a me non mi interessa. Però se devo entrare, salutare un amico, fare due chiacchiere dove voglio, le posso fare, ok? Se voglio farmi un questionario in 40, in 80, in 10, in 15, in 20, me lo faccio, non è un problema, ma non sono ai livelli di quelli che conoscete, anche se posso farlo, perché ho tutto quello che mi serve, ma non me ne affutti nulla, io l'ho fatto solo per avere la detenzione, non l'uso, la detenzione delle radio, che è molto importante. Riccardino! Riccardino ci va, non ti preoccupare. Il bambino ha un'intelligenza allucinante, eravamo al telefono stamattina, stava parlando veramente di cose, già conosce bene il 430, lo spostamento in HF, lo shift, conosce già tutto, è un ragazzo veramente molto molto intelligente, sì, adesso come fa gli anni, perché non li ha compiuti ancora a 15 anni, come compie 15 anni si iscrive, fa il corso. Lo iscrivono alla sezione, Ari, fa il corso e dà gli esami al radioamatore e passa il subizzino, cazzo ci passa, è il numero uno in classe, è il più bravo della a scuola, nella sua classe, è il più bravo che c'è. Allora è castigato Paolo, Riccardino avanti. Ciao Riccardino, mi hai sentito? Buongiorno. Non lo sento già. radio che è sempre 9,5, no? È sempre così, c'è 9,5. Ma dalla nonna è già. E qua come è questo Riccardino? Ma dalla nonna è. Non lo so, dove sei, da tua nonna? Positivo è. E allora, se può cuomane questo Riccardino? Ah, ecco perché Claudio non ti sento. Io non più male tra. Ah, reggito. Quello che mette sempre a bottante. Mi cacciofo. Ah, quello là c'è stato dando i colpi. Se si la viene di in capo, rigoglio. Dimmi che faccio una mazza da peso, così via a capo, così mi ridò qui i golpi. E ma sì che da te battiti i golpi. E magari ce ne le uccidenti, fra, no? E allora. Buongiorno. Ciao fra, buongiorno anche a te, dai, in compagnia di Claudia, Mattalino e Riccardino, dai, e poi il sottoscritto. Cappa, sì, sì, vi ho sentito, sono un po' che vi sto ascoltando. Aspetta, Bubbo, avete buona voi con questi importanti che pensate di che? E magari sono amici vostri. Ah, non vi affora, ma chi ti fa vedere no che? E allora, chi può essere, per carità? Comunque Riccardino non lo sento oggi, non lo sento per niente. Sento a voi e basta. Uia. Avanti qua. Manco io lo sento dalla nonna, se no già lo sento bene, 9:20 arrivo adesso. Fra, mi intenda a me. Cappa, buongiorno, Natalino, oggi già ti sento, è più calma la situazione stamattina. No, già va bene, va bene. Sì, cla, mi arriva, più di te mi arriva qua, Arriva quasi 9:10, arriva Riccardino adesso da casa sua. E io quanto ti arrivo, fra? Sì, 7 modulati a 8, dai. La radio è buona, comprensibile. Cappa, là. Quindi già mi senti bene adesso, dai. Cappa, ti ho sentito che hai messo un'altra storia. Hai fatto bene. E allora, più vecchio non puoi fare. Non è niente tenere, cioè... Io per tenere nel cassetto meglio non compro la radio, meglio usarle. Poi il camino già costa un barrio, vai di chi da maniera, da chi vuole a che controllo, che te lo manda, le bici. Oppure quando esci, vieni non sa che sono remuni, e poi non me lo cado. Ma infatti vi l'hai già detto, ecco ancora, non ho compreso. Ma usa la Natalie, usa la Futibini. E così facciamo. Ci conferma, KK. Gianni, avanti. Io ho visto quella Rinco che c'è, tipo quello che sta girando adesso, come si chiama il coso, Superstar 3009, quello digitale, e rimane tipo quello, ma è bellissimo quella Rinco, c'ha un bel colori, non puoi mettere il colore che vuoi, c'ha un verde acqua che è bellissimo, col verde acqua. L'ho visto già, l'ho visto, ma cosa mi vai? Guarda che come finisce tutto quanto, tutta questa gente che c'è adesso, non c'è più, ma da noi dovremmo mettere prima, che non attendiamo manco nel radio. Vabbè, perché prima male stavamo, anzi, stavamo meglio. Sì, stavamo meglio come persone, perché non c'erano le portanti, non c'era niente, invece aveva bisogno di portanti, bisogno di scrossi. Calma, mica c'è Riccardino, dai che deve entrare, avanti Riccardino, meno male che ci sono io che ti voglio bene. Riccardino, c'è anche un bel di propagazione, dice. Ma mi sa che è meno di ieri, sicuramente. Strana, non è che li senti bene bene. Ogni tanto si alza e poi si riabbassa, lui. No, ieri c'era un bel verso l'una, c'era da farsi a Burci. Nel 45 si stanno facendo a beffa. Un attimino, Riccardino, ripeti che ti ha sovrabbudulato involontariamente, Franco, che non ti sento. Rimacca la vicchiane. Potresti farlo, però devi avere l'alimentatore. Avere due alimentatori separati per fare questi lavori, credo che attacchi lineare, vedo che non ci sia nulla e per l'assorbimento, capito? Perché poi a più assorbimento con l'apparato insieme all'apparecchio, se funziona insieme all'apparecchio al doppio dell'assorbimento. Vabbè, tanto quando ci sta la tua nonna cosa fai oggi, venerdì e poi sabato e poi torni nuovamente il sabato, mi pare. Beh. Vai 12 o Vannetto. Ha ragione, adesso ti sei appassionato e non puoi rimanere, no. A parte chi chiama? Gianni, probabilmente ero io. Mi sposto un attimino, dai, che devo fare un controllo con Vannino. Ci sentiamo dopo. Ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo. Avanti, Claudio, poi fai girare. Ciao, salutoni, a dopo, vai Vannino. Ah, cari, questo Vannino da Giammato, riprendi. Ciao Franco, se mi senti. E ciao Vannino, se mi senti anche lui. E che Vannino, io non lo senti. Ma a me mi sembra che questo Riccardino è poco uomane. Ti stai ribellando. K è K di Rogero. Questo è l'FT950 a me, Natalico, l'MC60, connettore sempre spiralato, ne avevo due, e Andrea me l'ha fatto per lo IAESU, quindi tolgo quello che vado e metto quello dal piantone, no, da sotto, dall'MC60, e metto quello IAESU. Sì, già lo so che è il 950, ma mica cambia niente. No, vedi, l'FT950 va molto bene, anche il DC756, però con l'MC80, con l'MC50 non mi piace, è troppo grossolana. Invece questo è con i filtri anche in trasmissione, capito? E va bene. E io ogni tanto li faccio girare tutti. Ieri c'avevo tutto il giorno, la sera il 430, di mattina stavo usando quel Cobra. Adesso oggi faccio andare un po' questa, poi faccio andare, vabbè, 440 è sempre atteso, chi ce l'ha, c'è sempre atteso, ce l'ho il 40 metri, vediamo c'è qualcosa, ma poca roba c'è, non lo so, vediamo che cazzo c'è. Cazzo, la G5 RV e se ne sta ridendo, la Mantova 5, la cubica per i 6 metri, boh, c'ho, c'ho il trombone per giù, la X300 per su. Natalia, io lo sai che non mi stai dicendo niente, io conosco perfettamente quello che hai, ma se però non decidi di andartene lì, quelle antenne rimangono lì, non ci arrivi qua, non lo so. Me ne sto mangiando le mani. E può mangiarsi le mani. manice, dai, bisogna accontentarsi di quello che abbiamo e boh, cosa aggiudi io allora? C'ho un sacco di gente che vuole questa casa, ma nessuno c'ha soldi a comprare. E magari davano i gratis, mi compreso dai... infatti già la lascio stare, poi si vedrà, è come l'altra che abbiamo venduto, una parte qua di via San Francesco, la stessa cosa, tutti la volivano a gratis, no, quando poi l'abbiamo separata, divisa, allora è stata venduta perché il prezzo era più basso. E infatti, poi la gente non ha, è una crisi che si dà gli affetti, che là è un macello. Infatti adesso, a quanto ho saputo, l'agenzia immobiliare, perché sono sempre in contatto, e mi ha detto che stanno lavorando, perché le banche hanno dato più spazio, ho capito. Però c'è gente che non ha requisiti, è inutile che tu vuoi un mutuo da 100.000 euro quando sei part-time, oppure sei a tempo determinato. No, cosa vuoi chiedere? Questo che è venuto ultimamente, abita la casa, bellissima, qui e là, ho detto guarda, non c'è da fare niente qua, nulla, perché l'ho rifatta io 5 anni fa, ok, quindi non c'è da fare niente, nulla. Sì, perfetto, ti faccio sapere, perché devo andare in banca proprio settimana, cazzo, andare in banca l'hanno bruciato lo mutuo, ma come fai ad andare in banca se sei 2 anni a tempo determinato? Se non sei a tempo indeterminato non te ne danno mutuo. E fanno bene, ma hai visto cosa è successo in America? Perché erano allegri con la gestione. Cazzo, un macello è successo. Ecco, beh, è distratto. Lo so, ma non te ne date, dici no, devono vedere busta paga, buon stipendio e a tempo indeterminato, no, dici no, te ne date. Ciao Massimiliano. Ciao Claudio, ciao Natalino, buongiorno. C'è anche Gianni Doppio, Riccardino, che dalla nonna io però non lo sento, forse da te arriva. Riccardino. Devo andare a mettermi qualcosa in cucina, a fare qualcosa in cucina, dai. Ci sentiamo alle prossime, vi ascolto comunque, dai. Ehi Natalino, ciao, buongiorno, ben ascoltato, dai, ci sentiamo dopo. Gianni, vai, rilancia Riccardino, invece se lo sente Massimiliano. Tutto a posto, avanti doppio rum, buongiorno. Ciao Massimiliano, aspetta che facciamo parlare a Riccardino che era la nonna e Claudio non lo sente, Natalino non lo sentiva, e vediamo un po' se lo senti tu, dai, avanti Riccardino. Ah, ti sentiva Natalino? Non pensavo di... Io lo sento Riccardino, ci abbiamo parlato anche Zimmerano dal lotto di Manzano, vero Ricca? Alle 8.10 ho acceso, c'era Luca e coso. C'era Luca, Riccardo e c'era anche Natalino e c'era anche Fabrizio. Cata, non ha dormito oggi Riccardino per entrare in radio? Sì, vabbè, no, è dalla nonna, sicuramente magari i genitori stanno lavorando e quindi l'ho portato lì, no? Non va lì a farsi i compiti, mi sembra. Capito, ti ho mandato un messaggio Ricca, vai, passa se sei in giro con Sergio, passa, te lo ritiri il microfono così lo provi. Ah, infatti deve venire Roberto da te, quindi te lo porterà lui, va bene, ok, va bene, dai. Vedete voi, io te l'ho portato, poi vedi tu, te l'ho letto al telefono, poi stasera ci spostiamo, facciamo delle prove, dai. Avanti Massimo. Positivo. Va bene, che bene, aspetta un attimo, c'è Murzene, mi sta chiedendo cosa voglio da mangiare, aspetta. C'è un problema sto a mangiare, no, oggi pasta al pesto, una bella spaghettata al pesto facciamo, preso il pesto fresco, l'ho fatto già, messo in freezer, i barattolini l'ho tolto, già, un bel pasta al pesto e un po' di pomodori citrioli. Io oggi ho già preparato il pranzo, non faccio altro che scaldarlo e mangiare. Ho fatto il coniglio alla cacciatora e poi ho fatto i peperoni. Tanto prima non ne mangio, quindi quello lì va bene. sperare. Devi adeguare, non c'ha quello da lì, magari ha anche bisogno di digerire, di avere più tempo per digerire, quando ne anziano è così, e magari cucina presto per quello, anche i miei succhi erano così, mangiavano a mezzogiorno e poi la sera alle 6 stavano già cenando. Mangiato, sì, a faccia piena, quindi poi se c'è propagazione te ne puoi stare anche fino alle 2, alle 3 e parlare. Ho ripreso. Ha voglia che ci può arrivare. Dipende la zona, però puoi arrivarci, propagazione ci arrivi anche con gli antennini. Io con l'antenna della macchina dal parcheggio delle querce, non so se tu sai dove è, sono arrivato in Inghilterra. È il parcheggio che c'è di fronte alle querce, quel parcheggio lì. Io mi sono messo lì dentro, allora era aperto, adesso l'hanno chiuso, andavo sempre lì, mi mettevo lì e era in alto del quadrato, quindi andava molto bene. E che cos'è? Ah, te l'ha dato? Visto Riccardo, il giorno di tu gliel'hai portato, io sono andato per comprare un'antenna per la macchina e praticamente poi gli ho detto ascolti, il BBP5 ne ha, e detto sì, me ne hanno riportato uno e subito mi ho immaginato che era tutto, me lo faccio vedere, e era tutto quanto pieno di bolle, gliel'ho detto, e mi ha detto no, quello lì sono dei rilevamenti perché c'ha le viti sotto, ho detto ascolti, non lo dica a me perché io ne ho avuto parecchi, sia BB+4 che BB+5, non hanno mai avuto questi rilievi. E poi è arrivato Claudio, gli ha detto Claudio vieni, secondo te questo microfono? E lui gli ha detto no, sicuramente ha preso il sole, sì, già lo venderò, lo vendo di meno, già me lo vendo lo stesso. Sì, ma se non te l'ha ancora detto, sì, deve ancora dartelo. Cosa hai comprato, Riccardì? Aspetta, l'ho detto che non hai bisogno delle MB+5 tu. C'è una voce ancora... Sì. Però sì. Qua deve essere che è secco. Guarda, dopo. Oh, cosa ti volevo dire? L'MB+4 dovevi comprare, che non hai bisogno dei tuni tu. Va bene, perché tu c'hai ancora la voce bianca, non solo d'altro. E allora hai fatto bene, là. Metti tuni a zero e te lo usi. Se no l'MB4 te lo davo io che è in scatola, te l'ho detto stamattina. No, glielo davo a 50 euro, gliel'ho detto, tanto, gara. Ma ci vediamo, rientrato. Ebbene, riserve. L'ho ripreso, ti ha pagato. E io mi è trattato di un riserva. Nel riserva oggi non lo sento, c'è una propagazione a Santiago 7. Sono gli spagnoli, no io ce l'ho più bassa ma sono gli spagnoli. Ma io sono in una piana buona, capito? sono più vicino alla Spagna di te, io capito. Cavaga, no, a me mi arrivano Santiago 3. Antonio, lo senti a Riccardino? Ah, ecco, perché è a casa della nonna, non è a casa sua, hai capito? E cosa... come, Fabrizio si chiama, quello che abita a Lunesole, claro. O Fabio, Fabio forse. E il master mi ha detto ieri che quando ero in macchina gli ho spaccato lo Smith, dice che sono arrivato a 9.60, sono passato sotto casa sua, io non sapevo manco dove abitavo, e poi mi ha detto che mi ha seguito sino a quando sono arrivato a casa, dice ma veramente è bene quell'antennino. Praticamente c'ho quell'antennino, tu, quello che si usa nell'SOS, ti ricordi quella valigetta dove c'è il Maxon, eccetera, eccetera. Non è quella del Maxon, è l'Intec il mio. E praticamente ho usato quell'antenna lì, però con l'altro portatile, non con l'Intec. Con l'altro portatile Intec, ma non quello della valigetta. E va molto bene, solo che c'ha l'attacco a jack per la corrente, dovrebbe essere la corrente, c'è scritto SKI, non ho mai visto questa sigla qua. L'altro ci sono le cuffie disegnate, e quella c'è scritto SKI, dovrebbe essere la corrente, no? Solitamente ci sono dei simboli diversi, qua c'è scritto SKI e non riesco a capire che cos'è. Adesso devo andare a guardare le istruzioni dove le devo cercare e andare a vedere per che cosa serve. Se è la corrente ci piace, quello in macchina non lo tocco più. Perché va bene, capito? Oh già. Oh? Beh, sei riuscito a contattare quella persona? No, no, no, non l'ho chiamata. Per il momento non faccio nulla, dai. Vediamo, per il momento mi fermo così e valuto prima, non posso prendere la prima cosa che capita, forse lo prendo nuovo, perché così almeno sono sicuro che vada bene. Ok, ok, va bene, questo è abbastanza nuovo comunque, dalla foto sembra nuovo. Capa, ma Silvia, ma... esternamente magari, e poi c'hanno difetti, c'hanno, magari vanno male in banda laterale, vanno male, invece quando è nuovo, è buco di va. Anda a me, come non detto, va, quello lì è. Italia, un bimbo, cosa ti senti? Italia, attento e spana della scusia all'isola della Sardegna. Ciao Gio, buongiorno, non sapevo neanche che c'era la verità. No, sono arrivato adesso, e non è posto, sono andato a prendere la pressione. Va bene, allora sto arrivando. Va bene, no, dai, è troppo pesante che ce la faccio da solo. È pesissimo, ragazzi, se ne passiamo. È per musi, facciamo così. Tanto due anni fa il dottor Pari, non è che trasferi passione. Almeno quando ne hai la metà trasferi piano piano, là. E quello è già vero, poi quando ne hai pochi rimani più prudente, no? Fai un po' per volta. Gappa. Va bene che va bene, dai. Comunque c'è sempre la fila, no? Come al solito, sempre distanti uno dall'altro, per poi aspettare il turno. Beh, non puoi scendere queste di San Giovanni? No, io la prendo la centrale, a Sassi. Icchet! Io ho sempre preso lì, da quei 10 anni a questa parte, per cui no, anche perché poi da lì faccio, da lì alla nazionale. Sì, vabbè, ma perché per comodità la potresti anche prendere qua a San Giovanni, li punti, io esamento. È solo per comodità e basta. Lo so, ma allora in quel caso lì cammino poco, capito? Invece siccome adesso vabbè c'è il discorso virus, ma prima tanto sono tutti i santissimi giorni, per cui a me mi faceva anche piacere fare 4 passi. Intanto il discorso è questo. Dopo 15 anni potrei anche cambiare, certo, ma ripeto, faccio da lì, dalle poste, alla banca nazionale, se no avrei potuto fare direttamente alla banca, no? Va bene. Ok, allora, vediamo un po' se riprende Claudio, ci sei Claudio? No, Claudio si deve essere spostato. Vediamo un po' Antonio, che è successo oggi? Ieri ti ascoltavo, io giro. No, sono qua, ma ci vediamo, stavo facendo... siano accorsi. Scusate se non vi ho risposto. L'ho alzata. Ma ti ho chiamato due volte, vabbè. KK e KK, avanti allora, dai. Riccardino, riprendi e fai girare. Allora vai, fai di ex, va. Fai di ex. Avanti Gianni, non più rum. Avanti, chi chiama italiani, avanti. Ciao Gianni. Ciao Giulio, chi era questo che ha detto attenzione italiana? No, ma si vede, sono andato a tirare sulla tenda che l'avevo abbassata, c'era il cane in furia, a tenere il buongiorno. Ciao Giulio, buongiorno. Ciao qua, io sono appena rientrato. Io sono un po' stacco io, poi devo uscire alle 3, mangio un po' prima, oggi è l'una e qualcosa. C'è Massimiliano, Natalino, Gianni, Riccardino, non so, vabbè, Antonio Riserva, riprendi tu e fai girare, io vi lascio e mi sposto, vabbè. Ci sentiamo dopo se coincide, ciao a tutti. Ciao Claudio, ciao, dai, mi lascio anch'io 5 minuti. Va bene, a dopo allora. Ciao Antonio, se mi stai ascoltando, ciao Riccardino. Ma Riccardino dice che andava a fare gli ex, come fa gli ex oggi lui, con questo, con, da quella posizione. Figurati, bene, ma ti vediamo. Sì, vabbè, magari ciao, da lì, poi c'è un antennino di macchina, quindi non so quanto possa fare da lì, dai. Va bene, chi è che sta lontano? Claudio e Gianni, così ho capito. Sì, Claudio e Gianni, sì, tutti e due. Si sono messi d'accordo, adesso se ne vanno in giro a passeggiare. E allora, Roma Curino, Sibiglia. E io anch'io, ho fatto un paio di passaggi, ho Giulio, e poi me ne scendo giù e vado a accendere il fuoco, e oggi ho voglia di farmi un po' di carne arrosto. Ok, ma ti vedi, beh, anch'io però un po', intanto è già mezzogiorno e mezzo passato, per cui siamo vicino al pranzo. E vabbè, io non devo fare niente, già sta preparando mia moglie, dunque va bene così. Oggi lui è giù, anche perché io ci sono dalle 8:10 del mattino in radio, figurati. Ho staccato solo dalle 11 a mezzogiorno perché mia figlia fa le videochiamate con la scuola, là, diciamo con la maestra, quindi per non disturbare roba così, quindi spengo tutto e non voglio, la maestra vuole silenzio e cose così, là. Anche se sono in un'altra stanza io, però si sente se parlo e cose, quindi preferisco spegnere e via. Quindi infatti ho godo dall'otto di Manzano, sono mezz'ora e mezzo. Insomma la tua parte l'hai già fatta oggi, l'ho capito. No, mi sono alzato io alle 9:20, ho fatto la barba, mi sono preparato, ho aspettato un po' e sono uscito, tutto lì. Allora, ci ho fatto colazione prima ovviamente, prima di sci, lo faccio tutte le mattine e poi sono andato a fare un quattro basso, sono passato anche alla scuola guida per vedere se era possibile rinnovare la patente, ma ancora è chiusa, sono ancora chiuse le autoscuole. Anche io l'ho rinnovata lì sotto casa tua, là, quando l'ho rinnovata un paio d'anni fa, mi pare. L'ho rinnovata io e mia moglie assieme, tutti e due lo stesso giorno siamo andati. Ok, ho capito, ma no, è ancora chiusa, e già che lo Sassari ho provato a vedere se era aperta quella da Pasqua, anche quella è chiusa. Per cui dovrò ancora aspettare, va bene che ho tempo sino al 31 di agosto, perché è stato prolungato tutto, no? Questo discorso, perché mi è scaduto il giorno 29 di aprile, per cui ho tempo sino al 31 agosto per il rinnovo. Beh, lì non l'hai provato, visto che lì alle poste centrali, sotto il grattacielo, lì al primo piano, mi sembra che facciano rinnovi, non so se sia già aperto o chiuso, boh. Ah, è vero, mi c'è anche quel dottore, lo so, ma quello credo che sia solo la sera. Quando l'avevo fatto la volta scorsa, l'avevo fatta a grattacielo, anche perché lì si parlava meno di tutti, di 30 euro in meno di tutti gli altri posti. Mi ricordo che avevo pagato 70 euro lì, mentre invece all'altro scuola ne volevano 100. Ma quando era di sera, solo di sera c'era quello lì? No, io l'ho fatta di mattina, perché anche io la volta scorsa l'ho fatta lì. L'ho fatta da lui, capito? E vabbè, ma comunque ci sono gli orari che apre di lì sotto il grattacielo. Infatti, ti ho visto di lì, potevi magari avvicinarti a vedere gli orari che aveva, magari già aperto. E lì vai senza con le foto e tutto, vai e ti vasi tutto e dal volo. Sì, sì, è vero, sì, me lo ricordo. No, ma anche la scuola guida, anche qui di fronte a casa mia, no, posso farlo lì, ma è ancora chiuso, ho fatto, ma adesso vado a Sassari, è aperto a Sassari, invece anche a Sassari è chiuso. E vabbè, tanto non c'è fretta, tanto tempo siamo al 31 agosto, per cui va sempre bene. Vabbè, se c'è tempo già va bene allora. Va bene Giulio, io ti lascio che scendo giù da così inizio a accendere fuoco, così no mangiamo le 4 oggi. Ci sentiamo stasera se coincide, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando il canale 10, no, io me ne passo in quel Rix. Ciao Giulio, ci sentiamo stasera, ciao ciao. Ciao Massimiliano, buon pranzo dai, e buon arrosto, ci sentiamo stasera, ciao ciao. Ciao Massimiliano. Ciao Gianni, sei, ti sei allontanato o sei tornato? Sì, l'ho detto che mi stavo allontanando per andare in bagno, 5 minuti. Ah ok, no, pensavo che ti stavi allontanando per il momento, definitivamente, fino a stasera. E sono sono l'una meno 20 praticamente, giusta, in questo luglio, per cui ancora una ventina di minuti ce li ho io, dai. Sì, anche io, tanto il pranzo è pronto. Sì, anch'io qui già prepara mia moglie, dunque. Sì, anche oggi c'è un po' di propagazione, però non è come quella di ieri, ieri era fenomenale, oggi è un pochino più bassa. Ma ieri salita verso l'una ce n'era un bel di propagazione, infatti dovevo andare a mangiare, però non mi dava cuore di andare perché c'era propagazione, stavo aspettando a fare qualche collegamento importante, ho parlato con un inglese, poi diverse città tipo Catania, Messina, città così della Sicilia. Io Claudio, eravamo tutti insieme, c'era Natalino anche, poi c'era anche Riccardino e poi qualche altro anche. Abbiamo fatto tutta l'Italia, dal sud al nord, per cui non. Ma siamo stati più di 2 ore, mesi, sempre collegati, non facevano altro che chiamarci continuamente, noi rispondevamo proprio alla prima, senza bisogno di avere nessuna difficoltà, per cui. Vabbè, no, ma oggi non è così, oggi è un pochino più debole, a meno che non si rinforza più tardi la popolazione, ne staremo a vedere. Magari. Spagnolo, guarda. Sapete che ieri notte a Gianni gli si è bruciato il lineareto, eh? Perché è andando e scomparendo in modulazione, sicuramente gli si è bruciato. Sento, quasi la fine di un altro che si è addormentato con la porta a te abbassata ed è scoppiato e si è trovato con la faccia tutta nera quando si è svegliato. Incredibile. Per forza, il lineareto. Eppure con quello non riuscivo a sentirlo, vedi, e non riuscivo a sentirlo, non molto forte, ma Santiago 7 arrivava alla radio, la riuscivo a sentire, anche se avevo le cuffie, però lo sentivo abbastanza bene quello che diceva. Solo che lui ha cominciato a raffievolirsi la modulazione e a spogliare tutto, per forza perché faceva passaggi di 3/4 d'ora, ecco che quel finale di quel lineareto si saranno arrostiti. Ma non è quello, tanto quello, forse c'è stazionaria magari, più che altro, e quindi il lineare ne ha sofferto. Poi lui c'ha il problema che non riesce mai a allinearlo bene, perché se io gli ho detto, se tu gli dai meno entrata, non distorce così, se no cavolo, distorce un bel. Vabbè, ieri c'aveva il midland, non poteva regolarlo, a meno che lo regoli dall'interno. Che si può regolare dall'interno il midland, se lo regola un watt e mezzo vedrai come ti esci, quello gli darà 100 watt, anche di più forse, perché lo faccio aumentare di più di quello mio. Sì, e poi faceva delle regolazioni, anziché abbassare la potenza, lui abbassava il magic gain. Ma che senso ha? Se ti metti un lineare per farti sentire poi abbassi i mic gain. Io sinceramente parlandolo alle volte non lo capisco proprio. Certe persone che fanno così, no, soprattutto da persone esperte, la frequenta di tantissimi anni, non capisco proprio l'atteggiamento, la verità. Ma infatti anch'io mi sono meravigliato, abbassando il macchinetto, ha abbassato la voce, capito? Probabilmente lui l'ha abbassato troppo e stava scomparendo per quello, ha abbassato troppo il macchinetto. E poi alla fine è mancata del tutto, perché gli si è arrostito la lineare sicuramente, perché faceva passaggi lunghissimi e allora, essendo un lineareto, ne soffriva, non gli dai nemmeno il tempo di riprendersi tra un passaggio e l'altro, un minimo di sosta ha bisogno di un lineare così, di poche watt. Specialmente se hai stazionali. Soprattutto che ne avrà a mille. No, a me mi ha fatto ridere poi ieri, no? Tornando al discorso, l'altra volta ti aveva dato il figlio 9.30, che è già stato sotteva 7, e poi dopo quando ha aumentato la potenza. Quindi però mi sono messo a ridere la volta scorsa, perché c'era da ridere. Tu pensa che Claudio gli arriva a 9.20 e a te stava già a 9.30, boh, ridicolo, boh. Ma non ci ho creduto manco io, infatti. Non andava manco a me a giro la storia. No, non ci ho creduto che era 9.30, per carità. Non sono così potente. Sì, ma non è questione di potenza, è questione di saper dare anche dei controlli. Vabbè, sarà poco esperto, ma non è che ci vuole l'università per capire certe cose. Poi mi sono messo a ridere di nuovo ieri notte quando ti ha dato il controllo lui. Da 9.37, insomma, c'è un po' di differenza, no? E poi quando ho aumentato la potenza mi sembra che ti ha dato 9, se ricordo bene, sì, 9. Sì, ma magari Claudio stava usando uno di quegli apparati che c'ha lì centati, capito? E magari c'ha lo smitter sballato, probabilmente è quello, non è che non li sarà, ma probabilmente è lo smitter che c'ha sballato, l'apparecchio che usa, che gli ha dato quel base, l'ha ballato lui perché è mezzo sballato. E uno di quelli comprati da Marcello, l'ha già compreso. Sì, lui li riesuma ma in qualche maniera, capito? Cerca di farli funzionare, dopo tanti anni ce li ha buttati in garage, a uno li toglie, li pulisce, li fa. Ogni tanto ne toglie uno perché dentro casa la moglie non ne vuole più di tanti. Per carità. E vabbè. Vabbè, dai. Non è una novità, non è una novità, già, capisci bene? Gappa, vabbè, troia, andare, io già ce l'ho tutti belli ordinati dentro un mobile, chiudo lì, non si vede più nulla, sono belli a coperto, mi stanno proprio bene. Ah, dentro un mobile ce li hai tu, la città, lo sapevo, e che te l'ha fatto questo mobile? Un masolascio. Un mastrandina. Oh, iaia. Vabbè. Basta le macchie. Io ho fatto il lavoro agli altri e per me non ho mai fatto niente. Avendo addirittura a disposizione una massata intera, tutta conto mio. Eppure non ho fatto niente mai. Vabbè, comunque. Va bene lo stesso. Lo sai Marco, mio figlio, come ti chiamava quando era piccolino? Dove stiamo andando? A Mastro Geppetto? già me lo ricordo. Adesso, quanti anni ha Marco adesso? 19. Capita, è maggiorenne allora, è diventato anche lui. Beh, ormai giova 8. Già me lo ricordo, sì. Già me lo ricordo, Marcolino. Andare, hai visto come passano gli anni, i figli crescono. Vola il tempo, vola. Lui quest'anno è di maturità, si deve iscrivere all'università, è di maturità quest'anno. Ho capito. Cosa sta frequentando adesso? I geometri? Lo scientifico. Però si iscrive all'università in medicina adesso. O in medicina, lui adesso deve decidere, o in biologia. Gli piacciono queste due materie. Adesso vede, deve decidersi, dai. Se fa biologia o medicina, poi andrà a Bologna a dare la specialistica. Ok, vabbè. Quello lo dovrà scegliere lui, la materia che più gli piace. Medicina è un ottimo, un'ultima scelta, difficile ma ultima. Indubbiamente, speriamo bene che scelga la materia giusta, che fa per lui e che continui e che gli duri la volontà di studiare. No, è molto intelligente, come Manuela lo stesso, sempre col massimo dei voti è stata promossa. E così lui è in quinta e c'ha tutto 9-10 nelle materie, immaginati. Quando andiamo ai colloqui, sai cosa ci dicono? Cosa venite a fare? Cosa vi posso dire di Marco? Educato, bravissimo, studia, è un ragazzo che non si... come si dice, non si aggrega a quelli che fanno macello eccetera eccetera, lui è molto autonomo, fa ciò che pensa di fare, non si fa condizionare da nessuno, i professori ci dicono queste cose. E quello è molto importante, è molto importante che non dia retta a certi personaggi che magari ci sono anche a scuola, perché già lo sappiamo che anche a scuola ci sono i ragazzi che rompono le scatole e che scucciano l'altro, fa bene che va per la sua strada senza dare adito a troppe cose degli altri, fa benissimo. Vabbè, anche Manuela, ma che sia un difetto di questi Manuela, che sono tutte brave, chissà perché. Manuela è stata promossa con 110 lode all'università qua a Sassari, poi ha fatto la specialistica e ha dato un altro 110 lode, cioè bravissima, trova lavoro così a loro e adesso sta lavorando per una comunità e praticamente sta facendo la direttrice in una comunità, però ha anche lavori esterni tipo famiglie disagiate, lei ha scelto come materia scelte della comunicazione, capito? Ok, va bene così, appunto, anche mia figlia si chiama Manuela, per cui per quello che ti ho fatto quella battuta poc'anzi. Vabbè, meglio così, dai. Ah ecco, non ci stavo pensando adesso, è vero che si chiamano e anche tua figlia. A te la riserva. No, pensavo che fosse il parcheggio. Perché a mangiare stai andando, anche oggi ti tocca. Io ho già fatto tutto. Mi sono fatto la peperonata e ho cucinato il coniglio. Adesso quando vado mi scaldo un po' il coniglio, l'ho fatto, sarà una mezz'ora fa. Scaldo il coniglio e se non è caldo, se è tiepido lo mangio così, se no me lo scaldo un po'. I peperoni mi piacciono fritti invece. I peperoni mi piacciono anche dal frigorifero, proprio quando prendono il sapore la sera dopo che li fai, così è il minestrone. Minestrone a me mi piace il freddo. Bassissimo, ho dovuto mettere le cuffie a te, sì, adesso con le cuffie riesco a capire quello che dici, ma un momento fa non capivo quello che dicevi. Sì, anch'io minestrone, anch'io oggi già, e bistecche, e insalata, e tiriamo a campare. Sì, infatti, non sembra cosa va, no, ho fatto pesce l'altro giorno, ho fatto tracce di pesce spada, già mi sono piaciuti. L'altra volta avevo fatto tracce di tonno fresco, questa volta tracce di pesce spada, però li ho presi sui gelati questa volta. E già sono buoni lo stesso. Se fai la pitaiola sono buonissimi. Sono buoni sì, altro che. Al momento ti sento più basso oggi, cosa hai combinato? Ieri ti sentivo benissimo, sparito già. Antonio ci sei? Probabilmente la propagazione non compie. No, non c'è in questo momento propagazione, no, è lui che è basso. È basso, io ho Santiago 4 di QRM, niente propagazione, e lui mi stava arrivando il 5 poco fa, però la radio era bassissima. Oh, vabbè, dai. Va bene lo stesso. 1-10, meno 9, no, che sono quella stessa, sì, meno 9 minuti. E io mi sa che vado, così comincio a preparare la roba per Taisio da mangiare, che lui cucina a parte e lui mangia senza sale. E devo cucinare il pranzo a parte. Certo, già. va bene, allora ti lascio, e anch'io scendo giù e vado in attesa che sia pronto. Allora ci sentiamo stasera, ok? Ciao Gianni, salutoni, grazie per la chiacchieratina, a stasera se coincide, suppongo di sì, speriamo bene. Ciao Antonio, se mi stai ascoltando, anch'io chiudo dopo il finalino già, vai. Ehi, allora, ciao Giulio, ci sentiamo, buona serata anche a te, buona carica quando la fai, grazie per il QSO. Ciao Antonio, se mi stai ascoltando, io sto andando, deve essere altro andato a girare la roba da mangiare, dai. E tua figlia non sa cucinare, Antu? Cazzo. Il mio da piccolino aveva il vizio di attaccarsi alle tette, però sai cosa gli devi fare? Lo devi minacciare facendogli vedere il dito senza picchiarlo. Gli fai vedere il dito, non si fa, capito? Così. Io sono educato così, poi non toccava più nulla. Addirittura passava sopra i mobili e dove c'erano praticamente le cose, molte volte pensavi che le buttassi giù, che le rompesse, invece aveva una delicatezza, passando non le buttava una di cose giù, passava in mezzo agli oggetti e non li buttava giù. Ciao a te, ciao, alle prossime, ciao, ciao già. Ciao, ciao. Allora. Ma tu praticamente abiti in basso? Sai cosa dovresti fare? Una porticina per farlo uscire fuori. Vabbè che dopo ti ridurre incinta se non è sterilizzato. Chi te lo dice a te? Intanto torna mamma mia. No, no, il mio no. Il mio era diverso allora, io avevo un persiano molto bello. E te l'avevo fatto vedere, mi pare. E praticamente Titi era molto socievole, non graffiava. Le persone strane, prima se non le gradiva, prima le allontanava con la zampa. E poi se le graffiava. Però non era gatto che era cattivo. Di solito sono cattivi, sai quali. Come si chiamano? Non i persiani, il gatto persiano. E praticamente rimane più cattivo. Quello perché non ascoltano mai quello che gli dici. Così è Marco. Marco gli puoi dire mille cose e fa sempre a cabusuglio. Infatti adesso c'è dalla mamma. Ma sai, io quando facevo, quando era qua a casa, facevo il pranzo, Marco vieni a mangiare, lui che sta al computer, Marco ti cagava, niente. Come se non stessi dicendo a lui, sordo come il coso. E allora ci dovevo andare io a dirlo, lui c'aveva le cuffie, capito? Le cuffie al computer, ridendo, facendo sempre usci. Io sai cosa ho fatto? Visto che non veniva, quando chiamavo 50 volte, preparavo da mangiare a Tyson e poi mi mettevo a mangiare io. Quando arrivo poi mi potevo più chiamare, cazzo vuoi da baciare i culi, vai. 30 volte lo chiamavo. Adesso vado, mi mangio qualcosa, faccio a mangiare a Tyson e poi magari rientro per vedere se c'è propagazione. Ciao ciao, altrettanto, ciao ciao.